Buonasera. Buonasera a tutti e a tutte. Pirola Pippo. Ah, questa è in ritardo, è la puntata dedicata a Halloween di Fase Zero in diretta finta da Radio Forte. Forte Prenestino, CSO a Forte Prenestino, questo primo novembre voi state ascoltando appunto Fase Zero. Chiaramente questa che state ascoltando come introduzione è la prima traccia che si trova nel film Profondo Rosso. La colonna sonora era a cura dei Goblin e, come in questo caso, di Giorgio Gaslini. Questa è la la la la la la bye. Per una selezione anche questa volta mista, a cura di Ettore e di Andrea. Le solite soluzioni dell'ultimo momento. Abbiamo pensato di fare un contest dedicato ad Halloween, ma anche insomma in qualche modo allo scenario immaginario horror gotico e quant'altro, spaziando fra vari generi musicali. Adesso, dopo questa traccia, che era così un'introduzione, Andrea ci annuncia il pezzo che ha preparato. E sono The Five Blobs con il pezzo The Blob, scritto da Barb Bacharach e Mac Davis per il film The Blob di Steve McQueen. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. Maybe if I have another chance, I'll give another chance to you. If I make another wish, I'll wish for a wish for you. For you? Hey. One, two. E-Cad, you heard of these lads, the myth, how we made a grip, never go dick. E allora passiamo a qualcosa di più recente, dopo The Blob. Sempre una colonna sonora, abbiamo iniziato con questo piglio cinematografico. Passiamo alla musica dei Run the Jewels, questo gruppo veramente fra i più interessanti e stupefacenti dell'ultimo periodo. Dall'ultimo il quarto, The Goonies vs. E.T. Grande Jewels su Radio Forte su Face Zero. Cash it back, running through beds, all hope it don't crash. And it's all motherfucker, bring it up fast. Be alone, I'ma hold what I can and then dash. Fuck y'all got another planet on stash. Far from the fact that the flames of our trash. That is not snow, it is ash. And you gotta know the past, gotta rap. It's a lover gone mad, but I promise. Baby, if I had another chance, I would give another chance to you. Ooh. If I make another wish, I'll wish for a wish for you. Put the brass on the magic lamps, damn near rub through. Through. Spit wish at the wish at the wish at the wish, and the chances are that none are coming true. Didn't fake it. Life's a disguise, the truth is butt naked. Used to be a time I see it and I say it. Now I understand the woke folks is playing. Ain't no revolution, it's televised and digitized. You've been hypnotized and Twitterized by silly guys. Cue to the evening news, make sure you ill-advised. Got you celebrating the generators of genocide. Any good deed is pummel, punish, and penalized. Rulers of the world that slice it up like a dinner pie. Race in a nation told you to identify. Did they take false pride and warfare incentivized? Fuck that, me and my tribe, we on the ill advice. We accept the role of the villains cause we've been villainized. Stomp to the dirt of the earth, we still will arise. Paradone, let me alone as I solidify. This is life to ill, with a license to kill. This is nigga with an attitude of Beverly Hills. Heavy bill with a pocket full of treasures we build. Got a fire hot temper, find it hard to chill. I'm a lifetime member, fuck that fuck. Me and Jamie Burst Shaw with a knife in the must. Bad tombstones beat, ain't with nothing to fuck with. Please say that shit again, Mike. Ain't nothing to fuck with. E allora abbiamo detto che avremmo variato e quindi questo è un classico di Halloween, She's My Witch di Kip Thayil. Got a key and a master switch. She's my witch. Likes to rock to a crazy song. Every night she's a winning arm. She's a chick with a wicked twitch. She's my witch. Likes to drag in a going mill. Play the chicken just for the thrill. Till you wind up in a ditch. She is my witch. Allora, siccome parliamo di streghe, questa è la stregoneria di Witchcraft di Fela Kuti. Pensavamo chiaramente La cosa più banale era mandare Zombie, però è un pezzo un po' troppo ascoltato e che avremo modo di riascoltare. Intanto appunto beccati Witchcraft, Ferracuti. Slipping in the darkness. pleased to meet you. Pleased to have you on my plate. Your meat is sweet to me. Your destiny, your fate. You're my life support. Your life is my sport. I'm a man eating machine. I'm a man eating machine. You won't hear me laughing as I terminate your day. You can't trace my footsteps as I walk the other way. I can't get enough prey. Eating the tree for me. I can't get enough prey. A man eating the tree for me. Siamo passati, per rimanere su questo immaginario gotico splatter, parlando di cannibali. In questo caso però Grace Jones parla di ben altri cannibali. Corporate Cannibal chiaramente si riferisce a tutt'altro che un immaginario irreale, ma quantomeno reale. Questo era l'ultimo LP che ha fatto lei, Hurricane, forse per quanto ci riguarda il suo capolavoro, e ascoltiamoci questa traccia molto cupa. Blood flows satanical, mechanical, masonical, and chemical. Habitual ritual. And a man eating machine. A man eating machine. I deal in the market. Every man, a woman, and child is a target. A closet full of faceless, nameless, paying more for less, emptiness. I'll make you scrounge in my executive lounge. You'll pay less tax, but I'll take more back. My rules, you fools. We can play the money game, greed game, power game. Stay insane, lost in this cell, in this hell. Thank you. in Africa con un brano anch'esso molto cupo, Live in Another World di Tadi. Take my hand, take you to other side of the world. Hey brother, hey sister, you live the world on our side. Hold my hand, take you to other side of the world. Follow me, lead you to other side of the world. You woman, hey brother, you live the world on other side. Just take my hand, take you to other side of the world. Ritorniamo nell'immaginario più 50s, diciamo. Si parla di mummie, The Mummy Shroud, da parte del grandissimo Scientist, un disco del 1981, Scientist Reads the World of the Evil Curse of the Vampires, vale a dire che lui, Scientist, libera il mondo dalla maledizione diabolica dei vampiri. Beh, più di così, più Halloween di così. Fase zero, radio forte. Poveri vampiri. Thank you. rimaniamo in tema con gli Upsetters, ovviamente prodotti da, dal grandissimo Lee Perry, Vampa Dub. Forte, forte per il stilo, fase zero, Ettore Andrea controlli, ancora una buona domenica e buon Halloween. Ormai in teoria è passato, noi nella nostra navicella temporale siamo un po' confusi. Parlando di ombre, anche se questo brano ha delle sonorità molto solari, in realtà si chiama proprio così, Shadows, a cura di Lonely Liston Smith, dalla bellissima antologia della Flying Dutchman, Cosmic Funk e Spiritual Sounds, che racchiude anche molte tracce da Astral Traveling. Lonely Liston Smith, Shadows. Thank you. facciamo mancare niente, perché questa è la macumba del pipistrello e loro sono Os Mutantes dal Brasile. Non so se si è capito il concetto, eh? Macumba. Parola che qua viene detta spessissimo. Pericolosa. A Bat Macumba dei Mutanci si rispondo con Macumba Rock di ancora Lee Perry, Lee Scratch Perry, da Rainford, un disco abbastanza recente del 2019. Ancora fase zero per qualche minuto, una decina più o meno, da Radio Forte. I think I want my daddy. Lord, I wonder what's got the matter. I'm tired over time. It seems like hours. Everything has changed, but I hold my hand. Lord, I'm trying to make you understand. Lord, you know what? Everybody, they tell me. Somebody done hoodoo the hoodoo man. Say, Sarah. Now, you know why? I buzzed your bell this morning, baby, I had your elevator running slow. I buzzed your bell, little girl, take my phone to a third floor, but I hold my hand. Lord, I'm trying to make you understand. E dopo Lee Perry, un classico di Chicago, Hoodoo Man Blues, dalla Junior's Well Chicago Blues Band. Look at him, baby. I said, Mom, I tell you this time, baby, and I ain't gonna tell you no more. The next time I tell you, I might have to let you go, but I hold up my hand. Lord, I'm trying to make her understand. Lord, you know everybody, they tell me. Somebody on hoodoo, the hoodoo man. L'avevamo evocata Zombie, questa è l'ultima traccia per fase zero, magari la sfumiamo anche. Mancano pochi minuti alla conclusione della trasmissione di Radio Forte. Questa però è la Zombie, non di Felacuti. Ecco, sto parlando mentre entrano tutti, ma così come ci piace essere a noi provocatori, abbiamo mandato invece quella degli Art Ensemble of Chicago da The Jazz Room, compiled by Paul Murphy, disco del 1987, Zombie, eseguita dagli Art Ensemble of Chicago per fase zero. Ma E allora tanti saluti a tutti, Fez Zero dal Forte Prenestino, e volevo soltanto dire che volevo mandare un grandissimo abbraccio a Santa Galla da parte di Spizzilla. E vabbè, allora a questo punto anch'io volevo fare una dedica, questa magari un po' più seria. Perché Spizzilla non è seria. No, la Santa Galla che non so neanche chi sia, oltretutto. Ma come non sai chi sei? Sei di Roma, sei? Ma in questo momento mi premeva mandare un saluto a Polino, a cui siamo vicini con tutto il cuore. È vero, saluti. Un sostegno in questo periodo difficile. E ci risentiamo chissà quando. Allora vi lasciamo con queste ultime note da Zombie degli Art Ensemble of Chicago. Ciao a tutti e tutti. Ciao da Fez Zero. Ciao.